alta voce. Lucia Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Cominciò a passar molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo. Né lettere, né imbasciate da parte di lui non ne veniva. Di tutti quelli del paese o del contorno a cui poté domandare, nessuno ne sapeva più di lei. E non era la sola che facesse invano una tal ricerca. Il cardinal Federigo, che non aveva detto per cerimonia alle povere donne di voler prendere informazione del povero giovine, aveva infatti scritto subito per averne. Tornato poi dalla visita a Milano, aveva ricevuto la risposta in cui gli si diceva che non s'era potuto trovare capito dell'indicato soggetto, che veramente era stato qualche tempo in casa d'un suo parente nel tal paese dove non aveva fatto dir di sé, ma una mattina era scomparso all'improvviso e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato e non poteva che ripetere certe voci in aria e contraddittorie che correvano. Essersi il giovine arruolato per il Levante, esser passato in Germania, perito nel guadare un fiume, che non mancherebbe di stare alle velette se mai si potesse sapere qualcosa di più positivo per farne subito parte sua signoria illustrissima e reverendissima. Più tardi quelle ed altre voci si sparsero anche nel territorio di Lecco e vennero per conseguenza agli orecchi d'Agnese. La povera donna faceva di tutto per venirne in chiaro quale fosse la vera, per arrivare alla fonte di questa e di quella, ma non riusciva mai a trovar di più di quel dicono che anche al giorno d'oggi basta da sé ad attestar tante cose. Talora, appena gliene era stata raccontata una, veniva uno e le diceva che non era vero nulla, ma per dargliene in cambio un'altra, ugualmente strana o sinistra. Tutte ciarle, ecco il fatto. Il governatore di Milano e capitano generale in Italia, Don Gonzalo Fernandez di Cordova, aveva fatto un gran fracasso col signor residente di Venezia in Milano perché un malandrino, un ladrone pubblico, un promotore di saccheggio e d'omicidio, il famoso Lorenzo Tramaglino, che nelle mani stesse della giustizia aveva eccitato sommossa per farsi liberare, fosse accolto e ricettato nel territorio bergamasco. Il residente aveva risposto che la cosa gli riusciva nuova e che scriverebbe a Venezia per poter dare a Sua Eccellenza quella spiegazione che il caso avesse portato. A Venezia avevan per massima di secondare e di coltivare l'inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e soprattutto quello, senza di cui ogni altro è nulla, la sicurezza. Siccome però tra due grossi litiganti qualche cosa, per poco che sia, bisogna sempre che il terzo goda, così Bortolo fu avvisato in confidenza, non si sa da chi, che Renzo non gli stava bene in quel paese e che farebbe meglio a entrare in qualche altra fabbrica, cambiando anche nome per qualche tempo. Bortolo intese per aria, non domandò altro, corse a dir la cosa al cugino, lo prese con sé in un calessino, lo condusse a un altro filatoio discosto da quello forse 15 miglia e lo presentò sotto il nome d'Antonio Rivolta al padrone, che era nativo anche lui dello stato di Milano e suo antico conoscente. Questo, quantunque l'annata fosse scarsa, non si fece pregare a ricevere un operaio che gli era raccomandato come onesto e abile da un galantuomo che se ne intendeva. Alla prova poi non ebbe che allodarsi dell'acquisto, meno che sul principio gli era parso che il giovine dovesse essere un po' stordito, perché quando si chiamava Antonio le più volte non rispondeva. Poco dopo venne un altro ordine da Venezia, in stile pacato al capitano di Bergamo che prendesse e desse informazione se nella sua giurisdizione e segnatamente in tal paese si trovasse il tal soggetto. Il capitano, fatte le sue diligenze, come aveva capito che si volevano, trasmise la risposta negativa, la quale fu trasmessa al residente in Milano, che la trasmettesse al gran cancelliere, che potrebbe trasmetterla a Don Gonzalo Fernandez di Cordova. Non mancavano poi curiosi che volessero sapere da Bortoli il perché quel giovine non c'era più e dove fosse andato. Alla prima domanda Bortolo rispondeva: «Ma è scomparso». Per mandar poi in pace i più insistenti, senza dar loro sospetto di quel che n'era davvero, aveva creduto bene di regalar loro a chi l'una, a chi l'altra delle notizie da noi riferite di sopra. Però, come cose incerte, che aveva sentite dire anche lui, senza averne un riscontro positivo. Ma quando la domanda gli venne fatta per commission del cardinale, senza nominarlo, e con un certo apparato di importanza e di mistero, lasciando capire che era il nome d'un gran personaggio, tanto più Bortolo si insospettì e credé necessario di rispondere secondo il solito. Anzi, trattandosi d'un gran personaggio, diede in una volta tutte le notizie che aveva stampate a una in quelle diverse occorrenze. Non si creda però che Don Gonzalo, un signore di quella sorte, l'avesse proprio davvero col povero filatore di montagna, che, informato forse del poco rispetto usato e delle cattive parole dette da colui al suo remoro incatenato per la gola, volesse fargliela pagare, o che lo credesse un soggetto tanto pericoloso da perseguitarlo anche fuggitivo, da non lasciarlo vivere anche lontano, come il senato romano con Annibale. Don Gonzalo aveva troppe e troppo gran cose in testa per darsi tanto pensiero dei fatti di Renzo, e se parve che se ne desse nacque da un concorso singolare di circostanze per cui il poveraccio, senza volerlo e senza saperlo né allora né mai, si trovò con un sottilissimo e invisibile filo attaccato a quelle troppe e troppo gran cose. Già più di una volta ci è occorso di far menzione della guerra che allora bolliva per la successione agli stati del duca Vincenzo Gonzaga, secondo di quel nome, ma ci è occorso sempre in momenti di gran fretta, sicché non abbiamo mai potuto darne più che un cenno alla sfuggita. Ora però, all'intelligenza del nostro racconto, si richiede proprio d'averne qualche notizia più particolare. Son cose che chi conosce la storia le deve sapere, ma siccome, per un giusto sentimento di noi medesimi, dobbiamo supporre che quest'opera non possa essere letta se non da ignoranti, così non sarà male che ne diciamo qui quanto basti per infarinarne chi n'avesse bisogno. Abbiamo detto che alla morte di quel duca, il primo chiamato in linea di successione, Carlo Gonzaga, era entrato al possesso di Mantova e ora aggiungiamo del Monferrato, che la fretta appunto ce l'aveva fatto lasciarne la penna. La corte di Madrid, che voleva ogni patto, abbiamo detto anche questo, escludere da quei due feudi il nuovo principe, e per escluderlo aveva bisogno di una ragione, perché le guerre fatte senza una ragione sarebbero ingiuste, si era dichiarata sostenitrice di quella che pretendevano avere su Mantova un altro Gonzaga Ferrante, principe di Guastalla, e sul Monferrato Carlo Emanuele I, duca di Savoia. Don Gonzalo aveva concluso col duca di Savoia un trattato di invasione e di divisione del Monferrato e ne aveva poi ottenuta facilmente la ratificazione dal conte duca, facendogli credere molto agevole l'acquisto di Casale, che era il punto più difeso della parte pattuita al re di Spagna. Il duca di Savoia era entrato dalla sua parte nel Monferrato. Don Gonzalo aveva messo con gran voglia l'assedio a Casale, ma non ci trovava tutta quella soddisfazione che s'era immaginato, che non credeste che nella guerra sia tutto rose. La corte non l'aiutava a seconda dei suoi desideri, anzi, gli lasciava mancare i mezzi più necessari. L'alleato l'aiutava troppo. Voglio dire che, dopo aver presa la sua porzione, andava spilluzzicando quella assegnata al re di Spagna. Don Gonzalo se ne rodeva, quanto mai si possa dire, ma temendo, se faceva appena un po' di rumore, che quel Carlo Emanuele, così attivo nei maneggi e mobile nei trattati, come prode nelle armi, si voltasse alla Francia, doveva chiudere un occhio, mandarla giù e stare zitto. L'assedio poi andava male, in lungo, ogni tanto all'indietro, e per il contegno saldo, vigilante, risoluto degli assediati, e per aver lui poca gente, e, al dire di qualche storico, per i molti spropositi che faceva. Su questo noi lasciamo la verità a suo luogo, disposti anche, quando la cosa fosse realmente così, a trovarla bellissima, se fu cagione che in quell'impresa sia restato morto, smozzicato, storpiato qualche uomo di meno e, ceteris paribus, anche soltanto un po' meno danneggiati i tegoli di Casale. In questi frangenti ricevette la nuova della sedizione di Milano e ci accorse in persona. Nel ragguaglio che gli si diede fu fatta anche menzione della fuga ribelle e clamorosa di Renzo, dei fatti veri e supposti che erano stati cagione del suo arresto, e gli si seppe anche dire che questo tale s'era rifugiato sul territorio di Bergamo. Questa circostanza fermò l'attenzione di Don Gonzalo. Era informato da tutt'altra parte che a Venezia avevano alzata la cresta per la sommossa di Milano, che da principio avevano creduto che sarebbe costretto a levar l'assedio da Casale e pensavano tuttavia che ne fosse ancora sbalordito e in gran pensiero. Tanto più che, subito dopo quell'avvenimento, era arrivata la notizia, sospirata da quei signori e temuta da lui, della resa della Roccella. E scottandogli molto, e come uomo e come politico, che quei signori avessero un tal concetto dei fatti suoi, spiava ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza, giacché il dire espressamente «non ho paura» è come non dir nulla. Un buon mezzo è di fare il disgustato, di querelarsi, di reclamare, e perciò, essendo venuto il residente di Venezia a fargli un complimento e ad esplorare insieme nella sua faccia e nel suo contegno come stesse dentro di sé, notate tutto che questa è politica di quella vecchia fine, Don Gonzalo, dopo aver parlato del tumulto, leggermente da uomo che ha già messo riparo a tutto, fece quel fracasso che sapete a proposito di Renzo, come sapete anche quel che ne venne in conseguenza. Dopo non s'occupò più d'un affare così minuto e in quanto a lui terminato. E quando poi, che fu un pezzo dopo, gli arrivò la risposta al campo sopra Casale dove era tornato e dove aveva tutt'altri pensieri, alzò e dimenò la testa come un baco da seta che cerchi la foglia. Stette lì un momento per farsi tornar vivo nella memoria quel fatto di cui non ci rimaneva più che un'ombra. Si rammentò della cosa, ebbe un'idea fugace, confusa del personaggio, passò ad altro e non ci pensò più. Ma Renzo, il quale da quel poco che gli si era fatto vedere per aria doveva supporre tutt'altro che una così benigna noncuranza, stette un pezzo senz'altro pensiero, o per dir meglio, senz'altro studio che di viver nascosto. Pensate se si struggeva di mandarle sue nuove alle donne ed averle loro. Ma c'erano due grandi difficoltà. Una, che avrebbe dovuto anche lui confidarsi a un segretario, perché il poverino non sapeva scrivere e neppur leggere nel senso esteso della parola. E se interrogato di ciò, come forse vi ricorderete, dal dottor Azzecca Garbugli aveva risposto di sì, non fu un vanto, una sparata, come si dice, ma era la verità che lo stampato lo sapeva leggere, mettendoci il suo tempo. Lo scritto è un altro par di maniche. Era dunque costretto a mettere un terzo a parte dei suoi interessi, d'un segreto così geloso. È un uomo che sapesse tenere la penna in mano e di cui uno si potesse fidare, a quei tempi non si trovava così facilmente, tanto più in un paese dove non s'avesse nessuna antica conoscenza. L'altra difficoltà era ad avere anche un corriere, un uomo che andasse appunto da quelle parti, che volesse incaricarsi della lettera e darsi davvero il pensiero di recapitarla, tutte cose anche queste difficili a trovarsi in un uomo solo. Finalmente, cerca e ricerca, trovò chi scrivesse per lui, ma non sapendo se le donne fossero ancora a Monza o dove, crede bene di far accludere la lettera per Agnese in un'altra diretta al padre Cristoforo. Lo scrivano prese anche l'incarico di far recapitare il plico, lo consegnò a uno che doveva passare non lontano da Pescarenico, costui lo lasciò con molte raccomandazioni in un'osteria sulla strada al punto più vicino. Trattandosi che il plico era indirizzato a un convento, ci arrivò. Ma cosa ne avvenisse dopo non s'è mai saputo. Renzo, non vedendo comparir risposta, fece stendere un'altra lettera a un dipresso come la prima e a cluderla in un'altra a un suo amico di Lecco o parente che fosse. Si cercò un altro latore, si trovò. Questa volta la lettera arrivò a chi era diretta. Agnese trottò a Maggianico, se la fece leggere e spiegare da quell'Alessio suo cugino, concertò con lui una risposta che questo mise in carta. Si trovò il mezzo di mandarla ad Antonio Rivolta nel luogo del suo domicilio. Tutto questo però non così presto come noi lo raccontiamo. Renzo ebbe la risposta e fece riscrivere. Insomma, s'avviò tra le due parti un carteggio né rapido né regolare, ma pure a balzi ad intervalli continuato. Ma per avere un'idea di quel carteggio bisogna sapere un poco come andassero allora tali cose, anzi come vadano, perché in questo particolare credo che ci sia poco o nulla di cambiato. Contadino che non sa scrivere e che avrebbe bisogno di scrivere si rivolge a uno che conosca quell'arte, scegliendolo per quanto può tra quelli della sua condizione, perché degli altri si perita o si fida poco. L'informa con più o meno ordine e chiarezza degli antecedenti e gli espone nella stessa maniera la cosa da mettere in carta. Il letterato parte intende, parte frantende, dà qualche consiglio, propone qualche cambiamento, dice «lasciate fare a me», piglia la penna, mette come può in forma letteraria i pensieri dell'altro, li corregge, li migliora, carica la mano oppure smorza, lascia anche fuori, secondo che gli pare, che torni meglio alla cosa, perché non c'è rimedio. Chi ne sa più degli altri non vuole essere strumento materiale nelle loro mani. E quando entra negli affari altrui, vuole anche fargli andare un po' a modo suo. Con tutto ciò, al letterato suddetto non gli riesce sempre di dir tutto quel che vorrebbe. Qualche volta gli accade di dir tutt'altro. Accade anche a noi, che scriviamo per la stampa. Quando la lettera così composta arriva alle mani del corrispondente, che anche lui non abbia pratica dell'ABC, la porta un altro dotto di quel calibro, il quale gliela legge e gliela spiega. Nascono delle questioni sul modo di intendere, perché l'interessato, fondandosi sulla cognizione dei fatti antecedenti, pretende che certe parole vogliano dire una cosa. Il lettore, stando alla pratica che ha della composizione, pretende che ne vogliano dire un'altra. Finalmente bisogna che chi non sa si metta nelle mani di chi sa e dia a lui l'incarico della risposta, la quale, fatta sul gusto della proposta, va poi soggetta a un'interpretazione simile. Che se per di più il soggetto della corrispondenza è un po' geloso, se c'entrano affari segreti che non si vorrebbero lasciar capire a un terzo, casomai la lettera andasse persa, se per questo riguardo c'è stata anche l'intenzione positiva di non dire le cose affatto chiare, allora, per poco che la corrispondenza duri, le parti finiscono a intendersi tra di loro come altre volte due scolastici che da 4 ore disputassero sull'entelechia. Per non prendere una similitudine da cose vive che ci avesse poi a toccare qualche scappellotto. Ora, il caso dei nostri due corrispondenti era appunto quello che abbiamo detto. La prima lettera scritta in nome di Renzo conteneva molte materie. Da principio, oltre un racconto della fuga, molto più conciso ma anche più arruffato di quello che avete letto, un ragguaglio delle sue circostanze attuali, dal quale tanto Agnese quanto il suo Turcimanno furono ben lontani di ricavare un costrutto chiaro e intero. Avviso segreto, cambiamento di nome, esser sicuro ma dover star nascosto, cose per sé non troppo familiari a loro intelletti. E nella lettera dette anche un po' in cifra. C'era poi delle domande affannose, appassionate, su casi di Lucia, con decenni oscuri e dolenti intorno alle voci che ne erano arrivate fino a Renzo. C'erano finalmente speranze incerte, lontane, disegni lanciati nell'avvenire, e intanto promesse e preghiere di mantenere la fede data, di non perdere la pazienza né il coraggio d'aspettare migliori circostanze. Dopo un po' di tempo, Agnese trovò un mezzo fidato di far pervenire nelle mani di Renzo una risposta con 50 scudi assegnatigli da Lucia. Al veder tant'oro, Renzo non sapeva cosa si pensare. E con l'animo agitato da una meraviglia e da una sospensione che non davano luogo a contentezza, corse in cerca del segretario per farsi interpretare la lettera e aver la chiave d'un così strano mistero. Lucia Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.